Sicuramente sono una grande attrice perché, insomma, sono 12 anni che comunque lavoro e non si è ancora capito se ci sono o se ci faccio, quindi, insomma, più attrice di me. La Zanzara. Solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora tu, ancora mia, per padri e figli e per chi ancora... Tu mi chiederai, caro David, perché insisto con questa canzone. Dovrebbe essere una cosa morta, sepolta, definitivamente tramontata, scilipoti, tutto quello che si porta dietro, il movimento di responsabilità nazionale, eccetera, eccetera. Perché insisto con questa canzone, con questo perché? Inno? Perché sei malato, bacato in testa, venerdì sera, la gente torna a casa dalla propria famiglia o dalla propria amichetta, le persone vanno a preparare da mangiare, si preparano al weekend, finalmente c'è il sabato e la domenica, Cruciani, bacato in testa, gli rovina il weekend con un solo cuore. Ma c'è un motivo, non voglio rovinare la guida, non voglio rovinare il fine settimana alle moltitudini che ci stanno ascoltando. Bravo. Da tutta Italia, sulle strade di tutta Italia oppure nella propria... E anche dalla Svizzera e dall'Inghilterra, poi ti dirò, perché sono arrivati dei messaggi dall'Inghilterra di un fan club che è nato all'onda della Zanzara. Aspetta un attimo, non ci sono solo quelli che sono in macchina, ci sono moltitudini di persone che sono assiepate a casa... al computer, oppure in cucina, oppure in camera da letto, oppure in salone, hanno la radio accesa, non è che non vedono necessariamente la televisione. Ma a parte questa cosa qui, non voglio rovinare la serata a queste persone, non la voglio rovinare. C'è un motivo, cioè non lo faccio apposta, c'è un motivo. Beh, ci sono i giovani di Scilipoti che lanciano i loro messaggi. Perché scegliamo Mimmo? Senti, no, aspetta un attimo, fermatevi, non mandate nulla. Lo sai perché? Forse bisogna far portare i bambini in bagno di là, bisogna tappare le bocche, non c'è bisogno di portare il seggiolino fuori stavolta. No, aprite, guardate, no niente, andate in bagno, acqua nella vasca da bagno, molto calda, bollente, riempitela, come? No, calda, bollente, vabbè, allora... Sì, aspetta, riempitela, anzi, fate prima bollire dell'acqua per sicurezza, sì. Fatela bollire, come per buttare la pasta, poi buttate quest'acqua dentro la vasca, fino all'orlo, prendete il vostro bambino appena nato, dentro la vasca, radio a tutto volume, Zanzara. No, appena nato non c'è bisogno perché non capisce nulla, sono i bambini un po' più grandi che capiscono. Sì, quelli... quelli c'è un po' che capiscono che... E quelli in macchina come fanno? E quelli in macchina come fanno? Tappi nelle orecchie, quelli... nastro in bocca, tipo rapitori, no, che cosa? Quelli in macchina è molto semplice, voi prendete la cintura con la quale solitamente legate il seggiolino, sì. Portate il bambino davanti, abbassate il finestrino, lo mettete seduto col sederino con la portiera ovviamente aperta, il finestrino abbassato, sì. Nel finestrino legate con la cintura per sicurezza il bambino al finestrino, che però è seduto sulla porta, così non sente con la faccia di fuori, diciamo, no? Con la faccia di fuori. Benissimo. Però legato con la cintura di sicurezza, perché sentite i giovani di Scilipoti. Ho scelto di aderire al movimento di responsabilità nazionale dell'onorevole Domenico Scilipoti perché proprio qui io mi posso far valere le mie e le vostre idee, le idee di giovani che vogliono muoversi nella politica e vogliono volere far valere i loro diritti e le loro proposte. In questo movimento vige sovrana la meritocrazia. Solo cuore, un'unica idea. E si potrebbe continuare, eh? E si potrebbe continuare. E si Ho deciso di aderire al movimento di responsabilità nazionale dell'onorevole Domenico Scilipoti per il coraggio che il movimento ha di portare avanti battaglie importantissime per il popolo italiano, come la lotta al signoraggio bancario che ha ridotto il nostro paese ad essere schiavizzato dalle banche e la lotta contro lo strapotere di Equitalia. È ora di dire basta anche con la cattiva politica e la corruzione dei partiti. In questo mondo di ostinata follia. Vabbè, passiamo a qualcos'altro, che dici? Ma è qualcosa di agghiacciante. Passiamo a qualcos'altro? è meglio, però se qua si va di male in peggio con lei, direttorissimo. No, sono le primarie del Partito Democratico, per carità. Ah, le primarie del Partito Democratico con questa guerra all'ultimo sangue. Bersani, se non hanno buoni motivi, quelli nuovi non votano, altre che 90.000 citati pronti ad andare a votare alla nuova armata renziana. 3.200.000 persone hanno accettato e condiviso le regole. Non possiamo dirgli oggi che li abbiamo presi in giro. Ma se si presentano migliaia di persone li rimandate via, con rischio di vedere... Se stanno le regole, se hanno buoni motivi per dire... E se non ce li hanno, li rimandate via. Non possono. Vi faccio sentire però, siccome pare Berlinguer dice che il presidente del Comitato dei Garanti, che ci saranno pochi casi alla fine, poche eccezioni, si conteranno sulle dita di una mano e dunque, che ne so, qualche migliaio al massimo, secondo me, secondo lui anzi, cosa diceva il 25 di novembre? Cosa diceva domenica sera, credo, o lunedì, insomma, poco dopo, alla chiusura, anzi domenica, alla chiusura dei seggi dopo. Senti, sì, alla 7. Sì, alla 7. Sì. Possibile, è possibile ancora votare senza specificare la giustificazione o no. Era molto aperturista all'epoca. Poi sono intervenuti gli altri. È ancora possibile partecipare al voto? È ancora possibile, sì. Per quelli che hanno già fatto la registrazione, vanno e votano. Domenica 2 dicembre. Per quelli che non l'hanno fatta, ci sono due giorni della prossima settimana in cui gli uffici elettorali sono aperti, i giorni sono indicati nel sito www.primarieitaliabenecomune e troveranno quali sono i giorni e anche quali sono gli uffici elettorali, si registreranno e poi voteranno domenica prossima. Siamo milioni e un unico Dio. Poi vi faccio sentire l'excursus di Alfano, che pare stia per andare a Forza Italia con Berlusconi, cioè insomma lascia gli ex colonnelli o i colonnelli, chiamateli voi. Alfano, il 28 di febbraio, sentite. Quindi pensate di fare le primarie? Sì, noi che siamo convinti che il nostro candidato debba passare attraverso una unzione democratica popolare dei nostri simpatizzanti e delle, insomma, del nostro elettorato. Unica idea per un'Italia ancora, che ne so, un esempio, il 13 novembre. Mi scusi, lei esclude che Berlusconi riconvochi il comitato di presidenza per dire ci siamo sbagliati, non le facciamo più? Lo escludo. Anzi, le dico che lui parteciperà a numerosi eventi che si svolgeranno in giro per le regioni di... Infatti si è visto, eh? Infatti si è visto. E infine Sallusti, che potrebbe andare in galera da un momento all'altro perché rifiuta gli arresti domiciliari. Mi faccia il punto. Rifiuta i domiciliari contro Brutti liberati, sentite. Ma dov'è ora? Ma che ne so. Dico a Brutti liberati che se lui immediatamente non trasforma in pena detentiva in carcere, si fa complice e istigatore di un secondo reato, che è quello dell'evasione. Io non ho nessuna intenzione di evadere, nel senso di sottrarmi alla pena, non ho intenzione di andare all'estero, io chiedo che venga applicata la pena che mi è stata erogata. Bene, siamo qui, anzi malissimo, 800 24 00 24, registrato che Red Ronnie e Paolo Brosio sono simpatizzanti di Matteo Renzi e vorrebbe andare a votare alla primaria, anche se hanno avuto entrambi problemi logistici. Abbiamo con noi uno di quelli che viene considerato, Parenzo, tra i mostri di questa legislatura, tra i grandi mostri di questa legislatura. I grandi mostri, bello, sembra interessante questo. Grandi mostri di questa legislatura. Il mostro di Martinelli, che no, mostro di Martinelli. No, non c'entra niente, adesso lasciamo. No, tu dici mostro politico, non mostro nel senso assolutamente politico. Assolutamente. Ah, no, allora il senatore però è il senatore Sergio De Gregorio. Buonasera. Certo. Buonasera a voi. Come sta? Bene, grazie. È dimagrito, signor De Gregorio? Non dimagrisco perché non coltivo molti vizi, ma quello della buona tavola a casa mia lo coltivo sempre. dico a casa mia perché non vado per ristoranti. Non va per ristoranti. Scusi, quanto mi posso permettere? Siccome l'ho visto una volta dal signor Vespa parlare di diete, pensavo che lei, tempo fa ormai, quando lei era in auge, come dire, no? Pensavo che insomma seguisse una dieta. Evidentemente guardi, no. Guardi, sono felicemente assiso sui miei 115 kg e al momento non ho intenzione di fare diete, anche perché un po' di veleno ogni tanto ce lo fanno mangiare i giornali e le procure. A proposito di veleno, ma che c'entra, scusi, io sono i giornali e le procure? Poi, no, nel senso, il veleno dunque aumenta, diciamo, il peso per il veleno. Il veleno fa aumentare il peso in maniera proporzionale. Ma scusi, mi può dire una sua cena tipo? Ma guardi, non mangio cose particolarissime, mangio come si mangia in casa, mia moglie cucina bene, io sono un appassionato di cucina. Primo, secondo, contorno, tutto, vabbè. No, mangio una volta al giorno, la sera, e questo è il guaio. Una volta al giorno. A pranzo, faccio il salto dei pasti a pranzo. Però vabbè, la cena è quella che conta poi alla fine, no? Ma a proposito di vecchi, le dicevo, io mi sento tanto come Jurassic Park, nonostante sia stato in Parlamento appena 7 anni, mi rendo conto che nella percezione collettiva io e tanti altri appariamo vecchi. Quindi qualche mese fa ho fatto un pensiero serio e ho comunicato urbi e torbi che non mi candiderò alle elezioni politiche del 2013. E questo si conosce. Questo può far piacere ai miei nemici. E mi consegnerò anche alle mie responsabilità giudiziarie, se ne avessi. Sono ancora incensurato, ma il paese c'ha un sacco di guai giudiziari in corso. Qualche carico pendente. Ma sapete qual è il problema? Che nel PDL, io l'ho detto spesso, il partito sarebbe esploso o sarebbe rivitalizzato sul problema del garantismo. Bastava che ne avessero parlato. Invece il garantismo funziona quando riguarda il numero uno e quando riguarda tutti gli altri. E beh, vogliamo fare il partito. A lei l'hanno salvata però dall'arresto. Appunto. Ma guardi, io non avevo timore di andare agli arresti dei domiciliari. Perché lei io dice che hanno salvato il numero uno e gli altri li hanno lasciati a casa? Non mi pare, hanno salvato quasi tutti. No. Solo questo, Papa è andato in galera. Questo partito accetta di parlare di garantismo ho capito. Solo quando i problemi riguardano i piani alti. Bisognerebbe fare una scelta decisa di rinnovamento. Sì. E che io ho buttato un sassolino nello stagno dicendo applicate il codice etico. Scusi, De Gregorio. Dite a Berlusconi che forse è il caso che questa volta salti lui un giro. Sì, lo so, lei ha detto questo, ha detto anche che Berlusconi deve chiedere scusa agli italiani. Ma Berlusconi deve chiedere scusa a quelli come noi che hanno lottato contro il governo più impopolare della Repubblica. Qual era? Parlo del governo Prodi. E perché deve chiedere scusa a voi? Parlo del governo Prodi. E mentre noi combattevamo facendo politica e diffondendo idee e lui le nostre che faceva ragioni e lui rischiando in prima persona le attenzioni di un esercito di magistrati, lui che faceva? Consentiva a gente come Walter Lavitola di arricchirsi alla tavola degli appalti pubblici e si distraeva dalle sue funzioni di governo. Ma com'è che si distraeva, in che modo? Dice, con le donzelle? Dice lei. Guardi, il problema, non voglio fare anche io partecipare mi dica su questa cosa qua. Delle accuse, ma io ho detto quello che tutti nel PDL vorrebbero dire. Cioè cosa? Berlusconi deve fare il padre nobile del partito e tutto il resto lo devono fare, se è possibile, un manipolo di giovani nuove, facce nuove che vadano in Parlamento al posto nostro. Scusi, questa è la verità. Scusi un attimo, De Gregorio, lei dopo 7 anni, il vitalizio, quanto sarà il suo vitalizio? Lo sa già? Ma guardi, io prenderò pochissime. Quanto? Intanto quando andrò in pensione, che sono giovane, ho 52 anni, quindi andrò in pensione. Sì. Forse mi toccheranno poche lire, cioè quanto? Posso anche rinunciare, perché probabilmente il nuovo Parlamento ce le toglierà. No, non è questo che mi preoccupa. Ma quanto? Poche lire qua? D'accordo, ma poche lire quanto? Ma guardi, non lo so con precisione. Dopo 7 anni? Credo che dopo 7 anni un parlamentare non prenda più di 1.500 euro netti di pensione. No, questo è... Non credo. Comunque, traffico. Però non ho mai fatto questi conti. No, per carità. Attenzione, a me non è impredicato. C'ho 52 anni, amico caro. Gli italiani vanno in pensione a 72, a 74 e a 76. No. Ragazzi, mettetela come volete, ma la storia del leader Notav che viaggiava in Frecciarossa è stupenda. è stupenda. La storia del leader Notav che viaggiava in Freccia Rossa è meravigliosa. Dovrebbe viaggiare con il calesse e col cavallo. No, non dovrebbe viaggiare con il calesse o col cavallo, però no, qualche volta. Senza ironia, siccome rompe le balle, l'abbiamo detto tante volte gli amici Notav, noi siamo a favore della TAV e dell'alta velocità per mille ragioni. Ma lui che ne fa una battaglia ed è contro l'alta velocità, coerentemente, col calesse, con il cavallo, con la macchina. Con l'autostop. Con l'autostop, a piedi, ma a piedi nudi. È con noi Sergio De Gregorio, ex Italia dei Valori, PDL, leader di italiani nel mondo. Ma esiste ancora, esistono ancora gli italiani nel mondo? Esiste il mio movimento politico. Io ho chiesto al presidente Berlusconi, che mi sembra affaccendato in altre cose, di discutere sulla... Cioè lei aveva un accordo per essere rieletto, no? Giusto? Lei aveva un accordo per essere rieletto. Non io sono fra i cofondatori del partito PDL, ce l'avevano questo accordo tutti i piccoli partiti. Quanti deputati avrebbe dovuto presentare nel 2013 secondo l'accordo? Io avrei dovuto riproporre la mia candidatura e quella di un altro attivista del mio movimento. E adesso invece? Non mi candiderò e ho chiesto per iscritto al presidente Berlusconi, sì, dicendogli non mi candido, di candidare un giovane del Movimento Italiani del Mondo. Due giovani? No, uno me ne basta uno. Uno solo? Non voglio strafare. E se lui dice di no? Se lui dice di no? Se lui dice di no, è probabile che sia io che qualche altro gli presenti in tribunale un articolo 700, visto che ha firmato. In tribunale? Certo, in tribunale. Ah, per fare leggere un giovane di italiani nel mondo, su, De Gregorio. Assolutamente sì. Quando qualcuno di noi mette la firma sotto un accordo è responsabile delle cose che fa. Quando la mette il presidente Berlusconi non deve fare per finta. Ho capito, De Gregorio, ma lei sta dicendo che vuole da Berlusconi, che non si sa bene come, quando si presenterà, con che partito, eccetera, la sicurezza che un esponente di italiani nel mondo, lei dice un giovane, sarà eletto nel prossimo Parlamento. Allora, io lo voglio dal mio partito, non da Berlusconi, dal PDL, visto che l'accordo lo ha firmato il presidente Berlusconi, lo voglio anche da Berlusconi. E se questo non avviene, il tribunale, democraticamente, non prendo nulla, io non estorco posti in Parlamento. No, ho capito, ma lei dice che vuole portare Berlusconi in tribunale se Berlusconi non la soddisfa da questo punto di vista. Se il partito non ottempererà a quell'accordo, stia tranquillo che qualcuno dei partiti minori che presenti un ricorso ex articolo 700 con termini d'urgenza lo troverà agli angoli delle strade, stia tranquillo perché gli accordi si rispettano. Senta, ma lei ha detto sempre che nessuno fu pagato, almeno lei non fu pagato per il famoso ribaltone o comunque per la caduta del governo Prodi, per il famoso affare della compravendita dei senatori. Ma lei non fu pagato, ma qualcuno fu pagato secondo lei? Ma guardi, io prima di uscire dal Parlamento, stia tranquillo, andrò dai magistrati di Napoli e tutto ciò che è stato il mio rapporto con Berlusconi, con il partito, la mia storia politica, la racconterò scrivendo una pagina nuova. Ma ci sono segreti da rivelare? Italiana. Non ci sono grandi segreti, allora, ci sono atti politici importanti. Ma che scriviamo a fare allora? Abbiamo combattuto e probabilmente molti atti di quella guerra sono stati atti forti. Guardi, io ero presidente della Commissione Difesa, ero convocato tutti i giorni dall'ambasciatore americano in Italia e qualche volta veniva addirittura lui a casa mia. Non ho mai visto l'ambasciatore americano che va a casa di un presidente della Commissione Difesa, il quale era preoccupatissimo che Berlusconi tornasse al suo posto. Perché? Quel governo Prodi metteva, con le sue contraddizioni interne, era pieno di antimilitaristi, metteva in discussione la rete di sicurezza europea, di sicurezza e difesa europea. E gli americani erano preoccupati per la base di Vicenza, per i radar di Niscemi, per tutto ciò erano preoccupati per il nuovo disegno della rete di sicurezza. Tifavano Berlusconi e quando Berlusconi tentò di lanciò l'operazione Libertà, quella che avrebbe dovuto portare se stesso a sostituire Prodi, noi facemmo una battaglia politica importante. Cioè, scusi, lei mi sta dicendo che gli americani volevano il ritorno di Berlusconi? Gli Gli americani tifavano per Berlusconi, certo, lo avevano ospitato al congresso. Ma Prodi fu scalzato anche grazie a qualche operazione degli americani, cioè gli americani aiutarono. Prodi, beh, lei quello Prodi ci sta dicendo. Prodi tornò a casa perché il suo governo non reggeva, ma Berlusconi riceveva il tifo. E noi ma oltre il tifo ci fu qualcos'altro? No, non ci fu nulla. Vabbè, lei però se ce lo cita significa che qualcosa successe. No, non ci fu nulla di inquietante. Ci fu un gran tifo per Berlusconi e quando l'operazione Libertà andò, cioè voglio dire, quell'operazione lì fu appoggiata però dagli americani, quell'operazione di Berlusconi per far cadere il governo Prodi. Gli americani si interessavano molto alle questioni italiane. Erano preoccupati perché il governo Prodi aveva mille contraddizioni. Quanti soldi ha preso lei in totale da Berlusconi per la campagna elettorale, guardi, eccetera, in totale? Ho preso un finanziamento come l'hanno preso tutti i partiti minori della coalizione, di €1.000.000 per portare nei comuni e nelle province italiane, in tutta Italia, più di 110 consiglieri provinciali e comunali sotto. Ma perché ha rotto Berlusconi? Perché ha rotto con Berlusconi adesso lei? Ho rotto con Berlusconi perché Berlusconi in questa fase dovrebbe pensare di più al rinnovamento. Gli sto dicendo le cose che gli altri non gli dicono. Ma lui lo vuole il rinnovamento? Perché io non gli ho detto mai sì, sempre. Ho cooperato, ho lavorato silenziosamente, ho fatto il mio mestiere mettendo la mia esperienza al suo servizio. Oggi guardo oggi com'è ridotto, com'è ridotto Berlusconi oggi? Com'è ridotto Berlusconi oggi, secondo lei? Oggi Berlusconi è nell'incertezza totale. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'agnia nel letto che mi graffia tutto. Cosa ti devo fare? Beh, il mitico Mughini è sempre da ascoltare, caro Parenzo, sempre da ascoltare. Senti, scappo in Lussemburgo, avvelenati contro Mughini quando dice scappo in Lussemburgo, senti. Mi dovete fare capire. Ci parliamo di da tutto questo gran casino viene fuori un PD che vince le elezioni italiane, vince per abbandono dell'avversario, eccetera, e un PD nel quale o un PD o una coalizione nel quale c'è Bersani, Renzi e Vendola governa l'Italia della crisi. Ma io scappo in Lussemburgo. Ruggisce tutta la notte. E poi fa una sorta di endorsement nei confronti di Renzi. Renzi è la prima volta nella storia dell'ex PC che un leader va a cercarsi uno spazio, un'identità e dunque un elettorato non nel dire cose di sinistra. Perché a sinistra, nel PD, l'abitudine a dire cose di sinistra, scusa, mi sto appisolando, già mi appisolo a solo pensarlo, e finalmente si presenta uno che non vuole dire cose di sinistra. Come dare torto a Mughini? Poi naturalmente ci sono persone che cui piacciono le cose di sinistra, cioè no? Cioè, le cose tradizionali di sinistra, cioè, per carità. Però è vero, è la prima volta che un leader che si propone come leader della sinistra dice delle cose che non sono quelle tradizionali di sinistra, e il lavoro e i sindacati. Beh, e già questo Veltroni, e quell'altro. Già Veltroni. Beh, insomma, fatto. Sì, lui è andato oltre questa cosa. È la prima volta. Titoli del TG3, dai. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Il governo approva il decreto Ilva, la produzione può proseguire, un garante vigilerà sul risanamento, sanzioni all'azienda in caso di inadempienza. Prima del via libera del governo al decreto, il GIP di Taranto aveva respinto l'istanza di dissequestro, lutto per l'operaio travolto dalla tromba d'aria. Disoccupati record ad ottobre, quasi 3.100.000 in più in un mese. Camusso nel 2013, andrà peggio, IMO una stangata, la seconda rata. Le primarie del centro-sinistra si vota domenica, ultime battute della sfida tra Bersani e Renzi, ancora polemica sulle regole del ballottaggio. Totale incertezza sul futuro del PL, domani Alfano da Berlusconi per fissare la linea in vista dell'ufficio di presidenza, la prossima settimana. Nel Lazio, elezioni regionali il 10 e 11 febbraio. Il governo dovrà ora valutare se far votare nella stessa data anche Lombardia e Molise. Il giorno dopo lo storico voto all'ONU sulla Palestina, Israele annuncia la costruzione di 3.000 nuovi alloggi in Cisgiordania. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Sallusti scatenato contro alcuni giornalisti. Sentiamolo contro Barbacetto. Mandatemi in carcere. Ma a te non spiace niente, quello che ti spiace a te che non vanno in carcere. Ma non fare il paraculo, almeno abbi il coraggio di quello che dici. Contro Barbacetto del Fatto. Ma perché? Cosa gli aveva detto? Ma che ne so, non lo so. Poi contro un cronista, colonnello, Paolo Colonnello della Stampa. Sentite, Sallusti. Bravissimo cronista. Però. Vabbè, sempre il solito leccaculo tu, dai, Sallusti, ma lo dai. Conosco, bravo. Ma chi se ne frega, bravo, non è questo il punto, come dai. Ma sono al giornale moltissimi. Oh, mamma, devi sempre lisciare il pelo a tutti. Ma lisciare a nessuno, capisco che Sallusti è incazzato. Ma chi se ne frega adesso di dire bravo o non bravo a uno? Perché aspetta, senti. Quello che ha scritto il pezzo sulla casa no, quello è Poletti, era dai, Poletti. Su, dai. Ma io solo so che tu stai coi PM e sei contento che un giornalista vada in carcere, ma io ti assecondo talmente tanto che sono qui a chiedere quello. Ma non sono contento per niente. Ma non c'è un moto d'orgoglio di qualcuno che dice ma adesso siamo magari in diretta televisiva, non si può dire, ma una roba piccola, capito? Io non è che chiedo un applauso, ma dire, ma insomma è una vergogna. Non mi fa dormire la notte perché affonda il becco. E poi dice, questi cazzo di PM hanno fatto una porcata. Sti cazzo di magistrati hanno fatto una porcata. Colonnello, hanno fatto una porcata. Ti è chiaro? Ti è chiaro che è una porcata? Una botta al polpaccio e poi all'altro una botta nel braccio. Ma tu lo sapevi che Sergio De Gregorio, senatore del PDL o di quello che resta del PDL, leader di Italia nel mondo, ha fatto la radio un sacco di anni, Parenzo? No, questo non lo sapevo. Beh, ma tu non sai mai nulla. Ma insomma, caro De Gregorio, questo non ha fatto la storia, adesso voglio dire. Fatto di cosa? Vabbè, ha fatto a un certo punto la radio adesso, ha fatto Gregorio, una trasmissione anche dal nome interessante che si chiamava Arrogo Arrogo. Ah, che meraviglia, vado ad ascoltarla subito. Radio 1, se non sbaglio, o no? Sì, sì, Radio 1 in diretta da Napoli. E che faceva questo Arrogo Arrogo? Facevo servizi giornalistici in tutta Italia, ero un discreto giornalista. Pure. A dispetto di quello che pensano di me come politico. Meglio come giornalista che come politico? Forse avrei dovuto non cambiare strada, devo dire la verità, sì. Ma ho rappresentato belle cose, la difesa in tutto il mondo e devo dire anche con qualche punta di eccellenza. Addirittura, chiamate Roma 3131 pure, 3131, là sì, com'era? Sì, sì. Inviato su Radio 2, ha fatto qualsiasi cosa lei. Sì. Ho lavorato con Biaggi, con Marrazzo, ho lavorato con Ferrara. E poi si è rovinato. E poi mi sono rovinato con la politica. Si è rovinato però con ho giurato che non metto più piede a Palazzo Grazioli. Almeno ma come una mai? Disintossicazione. Ma me perché? La farò. Perché si vuole disintossicare da Palazzo Grazioli? Che è successo con Berlusconi? La prossima volta che il presidente Berlusconi mi vorrà parlare, sarà costretto a assorbirsi uno spaghetto ai polipi a casa mia. Perché? E faremo il patto del polpettiello, probabilmente. Ma perché non vuole più parlare con Berlusconi? Non ho capito. Perché deve ricordare questioni di quattrini, questioni di quattrini, secondo me, come no? No, questioni politiche. Guardi, quando c'è lei ci sono sempre i quattrini di mezzo. Io spesso ho abbandonato per principio, lasciai il settimanale Oggi per l'Avanti perché me lo chiese Bettino Craxi ed era un suicidio all'epoca. Scusi un attimo, De Gregorio, io voglio capire una cosa. Lasciò Di Pietro, qualcuno ci disse tempo fa, Formisano, sì, non mi ricordo se un deputato dell'Italia dei Valori, che in realtà la candidatura sua dell'Italia dei Valori la volle fortissimamente Di Pietro. E lo so bene, certo. È vero o no io questa cosa? Io l'ho sempre detto che mi fece un grande corteggiamento, ma vede, io mi candidai con Di Pietro, adesso la verità gliela posso dire. Sì, no, diciamo. Mi candidai con Di Pietro per dimostrare a Berlusconi, perché purtroppo il cuore stava sempre là e la fissa era sempre quella, per dimostrare a Berlusconi che esistevo. E i miei 35.000 voti in campagna gli fecero perdere le elezioni in tutta Italia. E lui me lo disse. e quando mi ricevette a Palazzo Grazioli, sì, subito dopo, mi disse: ma proprio tu che sei stato sempre con noi mi fai perdere le elezioni? E io gli dissi: perché c'hai un sacco di cretini intorno che non capiscono quando qualcuno vale. Ma quanti cretini hai intorno? Chi? Berlusconi? Tanti. Sì, tanti, eh? Tanti. Il primo chi è? Ah, guardi, non mi faccia far nomi, ma sicuramente non è circondato bene. Non è lo circondato bene. Male. Ma chi è che ha determinato la rovina, il declino del presidente Berlusconi? Diciamo, il cerchio tragico, quello attorno a lui, ne ha decretato. Ma guardi, la mancanza le donne. No, la mancanza di decisionismo. Mai una decisione che si portasse fino in fondo. Tanto coraggio che poi si spreca all'ultimo momento. È una roba incredibile. Scusi, De Gregorio, però lei con la politica si è arricchito, diciamo la verità. Io non mi sono arricchito con la politica, io mi sono impoverito, ho speso un sacco di soldi e sono ancora pieno di debiti, purtroppo. Ma scusi, lei ha accusato di aver intascato un sacco, accusato di aver intascato un sacco di quattrini illegalmente dallo Stato, soldi nostri. Chi, io? Sì, ma certo. Per carità, guardi che tutta questa favola sta portando poi alla verità. Cioè lei si è impoverito, lei con la politica, si è impoverito. Negli atti processuali c'è scritto che l'avanti era di Walter Lavitola, che io ero il suo fornitore dal 2000 al 2000. Vabbè, quello poi si vedrà in tribunale, adesso non possiamo stare. Nel 2006 l'ho lasciato, che davo da mangiare a un centinaio fra dipendenti e collaboratori. Quello si vedrà in tribunale, si vedrà in tribunale. Quindi non mi potevo arricchire. Vabbè, comunque lei se... sanno lei si è impoverito, lei si è impoverito con la politica. Ma proprio perché sono povero e felice. Quanto e hai, devo tutelare quanto ha in banca famiglia? Lei? Quanto ha in banca, De Gregorio? Manco una lira, sono inseguito dai creditori, ma proprio su, perché è in rosso, lei è rosso, felice, è in rosso in banca. In rosso, non c'ho manco la firma in banca. Ma come? Proprio perché sono inseguito dai creditori. Ma come fa a campare con lo stipendio? Non ho una lira, mi scusi. Sì. E devo tutelare sull'unico bene che ho, che è la mia famiglia, prima di uscire dal Parlamento. Sì. E la racconterò io la storia d'Italia ai magistrati. E non è una minaccia per nessuno. Ma scusi, quale è storia? Soltanto la consapevolezza che abbiamo scritto una pagina della storia d'Italia. Ma ha detto vera, che non ci sono segreti, ma ha detto. No, ma che purtroppo l'abbiamo capita in pochi e la conosciamo in pochi. Scusi un attimo, però, al di là di questa cosa degli americani che ci ha raccontato, ma quando lei lancia un'accusa così pesante nei confronti di Berlusconi, che ha permesso alla Vitola di ingrassarsi con appalti pubblici, poi bisogna dimostrarla sta cosa. I giornali li leggo anche io. Vabbè, ma lasci perdere i giornali. I giornali li leggo anche io. Io non ho fatto, non ho venduto carri armati, non ho venduto aerei, non ho venduto motonavi, mi sono attirato le attenzioni di giudici che hanno perfino inventato accuse contro di me. Lo sa che a Reggio Calabria un magistrato in carriera che doveva diventare procuratore capo si è dovuto dimettere dalla magistratura per avermi inventato un'accusa prima che il CSM che il CSM lo processasse. Ma cosa vuole ancora lei da Berlusconi oltre all'elezione di questo fantomatico? Nulla, assolutamente nulla. Voglio che mi stringa la mano e mi dica: coraggio, hai combattuto e te lo riconosciamo. Punto. Non voglio nulla che non sia mio, nulla da Berlusconi. Voglio che il movimento politico italiano nel mondo sia rappresentato in Parlamento, nel nuovo Parlamento, come è scritto nell'atto federativo che mi appartiene, e ho giurato a me stesso di disintossicarmi dal PDL e da Palazzo Grazioli. Scusi un attimo, un'ultima cosa, ma tra Renzi e Bersani chi voterebbe domenica? Tra Renzi e Bersani nessuno dei due. Nessuno? Vabbè, uno, se dovesse scegliere... Se dovessi scegliere, sceglierei Renzi, perché è ora che i giovani governino sto paese. Io non sono molto vecchio, ma sembro un dinosauro. Ma ce l'avete il coso? Ce l'avete il... Deve dimagrire un po', eh? Devo dimagrire un po', Sì, ma ce l'avete l'inno voi, italiani nel mondo? Io ho un bellissimo inno. E che inno è? Molto bello. Come fa? Come fa? Lo dovrebbe sentire. Magari le mando la cassetta, così se la ascolta. Ma dov'è sto inno? È meglio di quello di Scilipoti, è meglio? Sicuro. È meglio? Per carità. Ma dov'è sto inno? L'abbiamo cercato, ma non esiste. Glielo mando, poi lo farà sentire. Gli italiani nel mondo, ma non esiste questo movimento, De Gregorio. Ma dai. Io ma lei ha fatto la radio, ha fatto il giornalista. Ho avuto giornalista. Tanti eletti nel paese. Guardi, nel 2007 non ho dormito, nel 2007, nel 2009 non ho dormito una notte nel mio letto. Ne ho eletti tanti, ma sa che io significa che non ha dormito una notte? Avevo consiglieri comunali a Belluno, avevo consiglieri comunali ad Alcamo, avevo consiglieri comunali ad Enna. Ma questo grazie ai soldi di Berlusconi che fa la campagna elettorale? No, beh. me lo racconta qualcuno che fa le campagne elettorali senza soldi? L'ha mai conosciuto qualcuno che ha fatto le campagne elettorali senza i ma Alfano soldi? Ma Alfano come? Alfano è tra quei cretini che ha detto prima lei? Eh? Alfano? No, non ci penso nemmeno. No, Alfano è un giovane. Non è un gran decisionista, ma mi sembra che... Non ho capito una cosa. Dobbiamo chiudere? Soldi non ho capito. Ma lei quando fa un bancomat, sì. Cioè le ritirano il bancomat a quel punto? Non ce l'ha nemmeno il bancomat. No, non c'è... guardi, io purtroppo non sono molto gradito al sistema bancario. Ma ho capito, ma farà un banco, se deve comprarsi un panino con la mortadella, come fa? Ha detto che non c'è un euro, che ne so. No, ma il bancomat non ha neanche la tessera del bancomat. Un bancomat ce l'ho, uno solo. Quello sul conto di sua moglie? Sì. Sul conto di chi? Di sua moglie? Evito debiti. La Zanzara. Gerani, mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. E siamo qui 800 24 00 24. Fiorello un po' renziano, i vecchi gli dicono: a Renzi, dov'hai? Sentite, arriva, primarie ora volano gli stracci, perché sta tutti contro Renzi, no? Purtroppo. E il nuovo va attaccato, i vecchi subito: oh, dov'hai? Chi vince è presidente del consiglio, a destra lo sfascio. Fiorello, Dixit. Ce ne siamo resi conto, vero? Che chi vincerà queste primarie sarà presidente del consiglio, sapete? Ce l'abbiamo capito tutti questo. Cioè, perché il centrodestra purtroppo stanno in una... purtroppo per loro stanno andando allo sfascio. Ma insomma, non è così sicuro che chi esce vincitore da queste primarie sia presidente del consiglio. Ci sono molte variabili. Io più che Grillo non sopporto i grillini. Secondo me i grillini dissidenti sono peggio di Grillo, molto peggio di Grillo. Sentite la Salsi questa mattina a 24 mattino e scopre che cosa? Che Grillo usa toni violenti. Sentite. Beppe Grillo nei modi, nel linguaggio è un po' troppo violento, secondo lei comunque attira questo tipo di violenza verbale? Sì, sicuramente. Allora, nei modi, Grillo nei modi è sempre stato molto violento. Vuol dire, abbiamo fatto il vaffanculo dei, non mi sembra che sia una gentilezza quella che stava dicendo in piazza Grillo e che ha urlato in tantissime piazze. Quindi sicuramente i suoi toni sono sempre stati molto molto forti. Gerani, mettiamo gerani. Insomma, Beppe violento e cattivo con le persone, poi ha aggiunto, è cattivo con le persone. Ha ragione, abbiamo fatto il vaffadei, abbiamo fatto, e poi si stupisce che è violento. Ma dai, su, ma di che stiamo parlando? Perché di cosa? No, perché stanno combattendo una battaglia politica. Ma perché non guardi in faccia la realtà? Che queste persone sono tutte uscenti, hanno fatto già due mandati. Hanno già fatto due mandati, sono persone uscenti. Ragazzi che devono non molto tutti, a Grillo, ovviamente. Che devono molto a Grillo. No, devono tutto, devono tutto che a Grillo. Devono molto, ma siccome non sono degli auto, non sono dei burattini delle mani di e mangiafuoco. E a che cosa si oppongono adesso? E si oppongono a regole scritte da Ron Hubbard. E certo, regole scritte come è sempre accaduto. Come è sempre accaduto. E nei partiti c'è la democrazia. Ma quale democrazia? Di che stai parlando? Ma quale democrazia? Ma di cosa stai parlando? Non c'era nemmeno quando non protestavano. Non c'era nemmeno quando non protestavano. Solo che gli serviva ad essere eletti. Non è che gli serviva di essere eletti. Sì, gli serviva ad essere eletti. Adesso si ribellano a quello che già c'era prima. Il dominio assoluto di Grillo. No, non è questione che non mi piace la democrazia. È un altro discorso e tu non riesci a capirlo. Perché non ci arrivi. Vabbè, ma ognuno ha i suoi limiti. Cioè, Grillo e Casaleggio dominano quel movimento da quando l'hanno fondato e decidono tutto loro. Allora, o ti ribelli dall'inizio, oppure non ti puoi ribellare anni dopo dicendo: scusami, adesso non è, e adesso voglio che le cose cambino. E no, prima hai avuto cariche, onori, per modo di dire, nomine, e adesso ti ribelli? E no. Luca da Genova. Luca? Sì, dica. Buonasera. Senta, io non ho votato al primo turno e non potevo, no? Allora ho provato per votare al secondo turno. Sì. Ma dico, ho chiamato, mi hanno chiesto in pratica, mi hanno chiesto la giustificazione, ho dovuto dire che c'è la bambina che stava male, ci manca quasi che mi chiedono di cantare Bandiera Rossa. Io non credo che un partito che si chiama democratico possa fare le cose in questa maniera. E poi volevo dire un'altra cosa. Io ieri sera seguivo Santoro che parla dell'Ilva, che siamo qua a Genova ogni giorno, c'è lo sciopero, in pratica che anche a Genova abbiamo l'Ilva. Sì. Sentivo Aldo Busi, sì, ieri sera, che in pratica diceva: cosa ci fa un uomo come Riva con 3 miliardi, che come fai a guadagnare 3 miliardi di euro? Insomma, penso che per fare quello che ha fatto Riva, quei 3 miliardi di euro, non è che gli sono serviti per pagare tangenti a politici, sindacati che manifestano insieme agli operai fingendo di stare con loro, penso qualche magistrato, tutta la gente che ha fatto finta di niente per questi 20 anni. Il mio problema è quello lì, che qualche duno dovrebbe dire a questi operai che il sindacato probabilmente non li ha difesi molto bene. Adesso l'altro giorno ho letto una cosa che effettivamente faceva capire che alcuni sindacati, alcune sigle sindacali, anche le più grosse negli anni scorsi, insomma, sulla questione della sicurezza eccetera non erano stati proprio in prima fila, anzi spesso andavano d'amore d'accordo con l'azienda. Grazie Luca. Alessandro da Varese, che è c'è? Il decreto del governo fatto dal bravissimo Clini che segna uno scontro con la magistratura nei fatti, sì, che per fortuna la politica, ma che c'entra questo, scusa, a decidere. No, c'entra moltissimo invece. Alessandro da Varese. Ma come? Buonasera. Il governo ha deciso la riapertura. Ma che c'entra? Questo lo sappiamo, abbiamo sentito il giornale radio, abbiamo sentito tutto. La notizia di oggi, questa, no, i sindacati, le solite che dice colpa dei sindacati. I sindacati sono a favore del decreto del governo. Va bene, Alessandro da Varese, è un altro non discorso. Non è che va bene, ma non va bene. Alessandro da Varese. Grazie, buonasera. Volevo sapere se il Partito Democratico accetta come giustificazione per accettare un'elettrice al secondo turno il fatto che io ho impedito a mia moglie di votare al primo. Beh, mia moglie vorrebbe andare. Mi pare difficile, guarda. È una follia. Mi pare molto difficile, Alessandro. Molto bene, molto bene. Sì, mi pare molto difficile, cioè bisogna provare, dimostrare che in 20 giorni non hai avuto tempo di iscriverti, dunque, cioè, sinceramente... Non è che non ho avuto tempo mia moglie, io gliel'ho impedito proprio. Allora forse sua moglie ha qualche possibilità. Denunzi la violenza. E deve denunciare la sua violenza in qualche modo. Ma non mi dica questo, che poi non c'è più la pace domestica, voglio dire. Mia moglie deve stare a casa, non può andare a votare alle primarie del partito. Perché il Partito Democratico è il partito dei comunisti, voglio dire. E allora? E quella famiglia. No, non mi può lasciare abbandonare, lei deve stare in casa a far da mangiare e a tenere a posto la bimba. Ma lei sta scherzando adesso. Fossi sua moglie, le tirerei la minestra calda addosso, proprio in faccia, così la minestra calda che le ha fatto lì per due, in faccia proprio. Meno male che stasera invece mi ha cucinato dei tiktokeri fantastici. Le passo a mia moglie. La passo subito. Eli, lascia un attimo. Sì, passi la moglie. Pronto? Mia moglie l'ho educata bene. Non vuole rispondere al telefono. Però mi ha dato un calcio nel popò. Mannaggia. Grazie Alessandro, grazie. Massimo da Bologna, buonasera. Intanto c'è questa follia delle elezioni convocate nel Lazio per il 10-11 febbraio, annullando in pratica l'Election Day di marzo. Formigoni dice che anche in Lombardia bisogna andare a votare il 10 febbraio, dunque l'Election Day fortissimamente voluto dal centrodestra rischia di saltare, c'è una cosa pazzesca. In Italia non si sa nemmeno quando si va a votare, ma vi rendete conto o no? Che c'è un caos incredibile tra ricorsi, controricorsi, gente che non si arrende all'evidenza, elezioni convocate per il 10 marzo praticamente, anche se non in maniera esplicita, che rischiano di slittare ad aprile, cioè le elezioni politiche nazionali. C'è un caos indescrivibile anche sulle date, cioè negli altri paesi ci sono delle certezze, che è quella della data delle elezioni comunali, regionali, politiche. In Italia non c'è nemmeno questo, non c'è nemmeno la certezza delle date, una roba incredibile. Vabbè, Parenzo, che c'è? No, ma che ti devo dire? E adesso mi stupisce, ho letto la dichiarazione di Reggi, di poco il coordinatore. Sì, Reggi che ha detto una cosa pazzesca ieri da noi, cioè che ci potrebbe essere lo zampino di Bersani. Sì, appunto. Oggi l'ha riportato anche sul Corriere della Sera, lo zampino di Bersani nella vicenda della Corte dei Conti, cioè sì, che Bersani ha amici nella Corte dei Conti per la storia di Firenze. Il timing con cui è uscita la condanna a Corte dei Conti. Però adesso non è una condanna, sì, comunque. Cinque minuti fa dice: Le regole delle primarie non sono state votate, il regolamento non è stato votato, ma a due giorni dal voto tirano di nuovo fuori la questione delle regole. Cioè, la questione delle regole doveva essere politicamente risolta prima del ballottaggio, Durante il ballottaggio non si può litigare ancora sulle regole a due giorni dal voto, creare zizzania, come si dice dalle mie parti. Va bene, detto. Ti ho invitato una persona che ha fatto un sacco di legislature e che ha deciso di non ricandidarsi, che si chiama Livia Turco. Aspetta, buonasera. Aspetta che c'ho Favia in linea. Buonasera, come sta? Che c'è? Favia in linea. Aspetta perché un attimo. Ma perché scusa, ti chiama Livia, Favia? Perché Favia, ti chiama? Sono in diretta alla Zanzara. No, Favia del Movimento 5 Stelle ti chiama per dire quello stronzo di Cruciani non può trattarmi così, non può trattarci così. E invece, ha ragione. Ma io invece la penso... Il fatto che tu sia uno stronzo antidemocratico. No, ma dubbio. Il punto è un altro. Io penso una cosa molto semplice, che questi qua che si oppongono adesso a Grillo nel Movimento 5 Stelle dovevano venire fuori prima se pensano a Grillo un dittatore. Non lo possono dire adesso. Cioè Grillo non è che è diverso da un anno fa, da due anni fa, da tre anni fa. È la stessa cosa, identica cosa. Vabbè, adesso ti puoi dedicare un attimo all'onorevole Turco o no? Mi voglio dedicare con grande piacere. Oh, eccoci qua. Buonasera, come sta? Bene, bene. Allora. Mi stavo ascoltando. Vabbè, facciamo fatica. Questo facciamo... Reggi, guarda, veramente. Questo Reggi è un casino. Senta, ma lei come l'ha presa questa diatriba? Perché si è passati dalla serata in cui 6 milioni di persone hanno visto questo duello, bel duello in televisione, anche se un po' soporifero per alcuni versi, ma comunque insomma un duello nuovo, non si era mai visto uno contro l'altro, il giorno dopo il litigio sulle regole delle primarie. Effettivamente questa cosa della giustificazione però sembra un po' ridicola, no? Sì, credo che faccia parte del repertorio di quella sinistra che si dà la zappa sui piedi. Siccome Renzi vuole cambiare i difetti della sinistra, aveva l'occasione per cambiare un difetto della sinistra, mentre invece lui lo ripropone. Mi dispiace per questo, perché cioè colpa di Renzi, dice veramente darsi la zappa sui piedi. Beh sì, esattamente, lui dov'era quando si sono decise le regole? Dov'era? Dormivano i suoi quando si sono decise le regole? Nel camper, non è che c'è un comitato dei garanti, cioè noi siamo un partito serio e siamo un partito serio non perché ci sono 20 dirigenti autorevoli bravi, abbiamo un segretario meraviglioso, come si è visto soprattutto dalle sue lacrime di ieri, perché si vede che pasta è fatto quell'uomo, Vabbè, non è che uno è meraviglioso perché piange. No, vabbè, la sua umanità, da dove viene. Bettola, perché Renzi non è la pasta umana. Perché Renzi non è umano? Renzi non è umano. No, ma io quindi non sto parlando del PD, dei dirigenti, è un segretario di cui è venuta fuori la forza, ma poi c'è migliaia e migliaia di persone che non si fanno prendere per il naso, che ci mettono del proprio. Cioè noi abbiamo un quid che non ha Berlusconi, che non ha il centrodestra. Questo quid si chiama militanza. C'è persone che ci credono. Ma lei dice che Renzi la sta distruggendo tutto questo con questo atteggiamento? No, dico che no, ma non voglio fare paroloni grossi, anche perché poi veramente è stata talmente bella questa campagna elettorale anche per merito di Renzi, quindi figuriamoci un po' se voglio mettere in questa polemica lascerà anche il tempo che trova, tra l'altro. Dico semplicemente che è assolutamente immotivata, che le regole erano state decise secondo Renzi, sono state subite anche in parte però scusi, secondo lei, onorevole Turco, però secondo lei oggettivamente, se una persona come Margherita Hack per motivi vari, cioè anche per dimenticanza, perché uno magari non legge tutte le cose come sono state. Margherita, scusi. Vuole andare a votare, perché non può andare a votare? No, scusi, Margherita Hack ha maggior ragione, si legge le regole, si attiene alle regole. Ma cos'è questa storia? Cioè, se si decidono, se una comunità, più una comunità che vuole essere di tanti, diversi tra di loro, sta insieme se ci sono delle regole che sono condivise e che poi sono rispettate. E quindi mi fa ridere questa storia di Margherita Hack. Margherita Hack è una che a maggior ragione legge le regole e le rispetta. E si iscriveva via internet. Se non avessi rispettato le regole e non mi fossi iscritta, non fossi andata nel circolo. Cioè perché appunto è in gioco la comunità. Però scusi un attimo, non si è mai visto che al secondo turno, in altre elezioni, è vero, elezioni politiche? No, nazionali. Non è vero, guardi, io le invito alla lettura, non voglio essere di pedante perché poi risulta, però le invito ad andare a leggere l'articolo che ha scritto oggi sull'Unità un costituzionalista. Vabbè, non è che sono neutri i costituzionalisti. No, dove cita l'articolo 3 del regolamento cui ha partecipato Renzi, se Renzi si è distratto è colpa sua, sì. E dice delle cose molto chiare, dice che il che la base elettorale, se vuole gliela leggo, guardi, gliela leggo che cosa dice il regolamento a cui ha partecipato Renzi. Le iscritte e gli iscritti all'anno sì. Costituzionale costituiranno la base elettorale delle primarie e avranno automaticamente diritto di voto all'eventuale secondo turno, aggiungendo che il Collegio dei Garanti disciplinerà le modalità di iscrizione all'albo da parte di coloro che si sono trovati nell'impossibilità di registrarsi nel periodo dal 4 al 25 novembre. Benissimo, ma non basterebbe la differenza che c'è tra dichiarare e dimostrare di essere Ma lei le sembra possibile che uno presenti una giustificazione come, che ne so, una frattura al braccio, un biglietto aereo? Uno basterebbe una dichiarazione in cui dice sono stato impossibilitato. Guardi, il regolamento dice che bisogna dimostrare. E quindi tutti devono Renzi ha detto che ci sono 90.000 persone pronte. C'è un comitato dei garanti, ci sono dei comitati provinciali, valuteranno, perché io ho fiducia nella democrazia e la democrazia significa regole. Ma Renzi come... partecipazione significa regole. Ho capito. E poi parliamo di qualcos'altro. No, quindi, certo. 90.000 presunti, 90.000. Così dice Renzi, mica dico io. Sì, no, anche perché se vogliamo metterla su questo piano e vogliamo alterare le regole, Bersani avrebbe un grande vantaggio a dire avanti, forza, però sarebbe veramente distruggere la comunità. Distruggerebbe la comunità. Comunque, ma è come Berlusconi? Una comunità si regge se ci si rispetta, se si condividono dei valori e se ci sono delle regole che vengono discusse insieme e poi rispettate. Ma da questo punto di vista non cambiano le regole durante la gara. Lei lo sa meglio di me. No, ma stiamo dicendo delle cose talmente ovvie. Secondo me le regole erano anche un po' vaghe, altrimenti non si sarebbe discusso. Scusi un attimo. Magari può darsi che non sia. Io non dico che sono state Berlinguer il primo giorno. Berlinguer. Dico semplicemente che Renzi c'era e che lui dice di no. Siccome Renzi ha criticato i difetti della sinistra, e tra i difetti della sinistra c'è stato quello di essersi data la zappa sui piedi, non aver valorizzato le tante il cose tafazzismo. Belle e importanti che ha fatto, tafazzismo. Vorrei che non cadessimo in questa forma di autolesionismo. Benissimo. Siccome non c'è paese al mondo che abbia vissuto una esperienza democratica straordinaria come questa, e dietro questa esperienza democratica, lo ripeto, ci sono persone in carne ed ossa. Vuole distruggere questa comunità. Rischia di distruggere questa polemica rischia di non distruggere, però incrinare una comunità. Senta, quindi, siccome lui ha il senso della comunità, anche se non mi piace il fatto che per tutto il tempo abbia parlato del noi e loro, però io penso che lui sia della nostra comunità, che faccia parte della nostra comunità. Ma se lui vince, se lui vince, voglio pensare che lui abbia il senso della. Sì. Senta, onorevole Turco, scusi un attimo, se lui vince, lei lo voterà come presidente del Consiglio? Lei, com'è? Livia Turco, se Renzi dovesse vincere domenica, lo so che per lei è un'ipotesi fantascientifica, però se Renzi dovesse, fammi scherzare un attimo, se Renzi dovesse vincere, lei lo voterà come presidente del Consiglio? Ma guarda che io non ho dubbi che se Renzi vince primarie lo voto presidente del Consiglio. Va bene, è una domanda, magari che ne so. Perché rispetto le regole, lo sai, è una persona le cui parole mi hanno profondamente, non dico sul piano personale, dico sul piano della storia politica, profondamente ferita, perché quando lui parla di rottamazione sento un vocabolo lontano mille miglia dalla storia bellissima della sinistra, cioè non è di sinistra, non è di sinistra, che parla di dignità della persona, non si rottama, la rottamazione è qualcosa che va contro il valore della dignità della persona. Lo sento lontanissimo quando parla così male dell'esperienza dell'Ulivo, lo sento lontanissimo, ma gli riconosco delle capacità, gli riconosco dei meriti, lo sento lontano nel suo programma politico, perché vorrei molto di più il valore del lavoro e dell'uguaglianza. Dopodiché, siccome è molto lontano e lo vota, e lo vota. Se lui dovesse vincere lo voto. Certo. Senta, ma come, sulle regole non è un po' come Berlusconi, non ha l'atteggiamento di Berlusconi, Renzi? Che vuol dire? Cioè, se no, però sulle regole, sul fatto che lei dice no, vuole rimettere in gioco tutto, qualcuno ha scritto un po' un atteggiamento berlusconiano. Ma no, no, non lo so. Adesso io non vorrei neanche sopravvalutarlo questo Renzi, esageriamo. Se ha dimostrato di essere un ragazzo con delle capacità, ha dei pensieri che non coincidono con i miei, con i miei, fa parte del mio partito, lo considero parte della mia comunità, mi piacerebbe con lui discutere di molti temi, per esempio quello dell'immigrazione, perché avrei voluto che come sindaco di Firenze facesse di più per il diritto degli immigrati, così come vorrei discutere di altre cose, ma insomma lo sento parte della comunità nonostante... Senta, lei una volta ha detto che D'Alema si dovrebbe ricandidare, però non si sa bene quello che fa. Che farà D'Alema? Lei che sa, lei che è molto vicina a D'Alema, alla fine che fa? Ma guarda, D'Alema è una persona talmente piena di risorse, di capacità... Ma si ricandida, no? Ma lui ha detto che non si ricandida. Beh, però se vince Bersani, se vince Renzi, ha lasciato capire. Ah, beh, certo, beh. Credo che il nostro D'Alema abbia insegnato tutti il valore e il merito della battaglia politica. Quindi... Dunque, se vince Renzi si ricandida? Sì. Potrebbe. Così ha detto lui. Io non sono interprete di D'Alema, così ha detto lui. Ha sentito tutto. Ma dove lo vede lei? Dove lo vedrebbe bene nelle prossime anni? Qualunque cosa può fare. D'Alema lo vedo bene fare tante cose, lo vedo per esempio bene commissario europeo, degli esteri, commissario europeo, anche ministro degli esteri lo vede, certo, sì. Certo, di nuovo certo. Ministro, perché no, scusi, anche non mi pare che abbondiamo di tutta questa competenza in materia di politica estera, mi pare che sia uno dei temi cruciali questo, e credo che nessuno possa mettere in discussione la competenza, ma può fare anche altre cose, quindi poi non sta a me dire cosa... Insomma, credo che... Lo sai che Parenzo, che l'onorevole Turco è di Cuneo, come la Santa Chè, come Briatore? No, Morozzo. Morozzo. Ah, Morozzo, è diverso. Io Turco so tutto, sono il biografo ufficiale di Briatore. Perché c'è la fiera del Cappone. Comunque lei credo che abbia in comune con Renzi il fatto che è molto anti-juventina, se non sbaglio. Sono molto? Anti-juventina, vero? Quelle volte che ho tifato per il Toro. Appunto, no. È una cosa che ha in comune con Renzi, che è fiorentino, naturalmente tifoso della Fiorentina, eccetera. Mentre Bersani però Cuneo è la Santa Anche. Guardi, però che abbiamo quasi nulla in comune, perché lei è la Cuneo bene e alta. Io sono la Cuneo proletaria. Poi c'è anche Briatore, c'è anche Briatore. Appunto. C'è anche Briatore nel novero. Le differenze di classe sono esistite ed esistono, Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, como una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa mucho, si no prendo suelo. Eccoci qui, sono le 8 in punto, 8 in punto alla Zanzara, 800 24 00 24, e con noi Lidia Turco, Partito Democratico. Grande bersaniana, si è commossa pure lei, sembra, davanti alle lacrime di Bersani Porta a Porta. Comunque ha visto un segretario vivo, un segretario umano, non che l'altro sia in realtà un robot, però è semplicemente più giovane, magari non c'ha i genitori. I genitori non ha visto la foto dei genitori, però voglio provare con la Turco un esperimento. Allora, chiamiamo una sede di un comitato provinciale. Noi rompiamo le scatole su questa storia delle regole, perché è l'argomento di cui si parla in questi giorni. Chiamiamo. Voglio vedere quanto sono preparati. Che mi state chiamando? Napoli o Torino? Torino, dalle parti della Turco. Sentiamo. Parenzo, faccio la parte io. Sì, ti riconosco. Non mi riconosco. Sei un provocatore. No, ma che provocatore, no. Che sperando che risponda. No, ma che reazionario? Beh, glielo dico in vita mia. Ma sei culturalmente un retrogrado? Ma assolutamente. Ma è evidente che poco male ammettilo almeno. Ma no, ma assolutamente non sono reazionari. I reazionari sono altri, non rispondono, non lavorano, anzi no, sono le 8, magari sono andate a casa. Gente che sta sui militanti, volontari. Ma sì, ma abbiamo provato prima, rispondevano, adesso magari è tardi, capito, alle 8. Volevo fare una prova se erano preparati sulla giustificazione. Chiama la Bolognina. Però io voglio dire una cosa, si può fare un paragone. Come esiste la deroga per i parlamentari, onorevole Turco, no? Per le candidature, è prevista una deroga. Allora si può prevedere una deroga pure per quelli che non sono andati a votare. Non è che si può essere così, come dire, a questi 90.000 come si risponde? Potevate pensarci prima a questi 90.000 che presenta Renzi? Io torno a insistere. Il fatto che... Ma c'è pericolo di inquinamento? C'è pericolo di inquinamento? Perché? Ma potrebbero andare a votare gente di destra, drappelli di gente... Ma guardi, che gente di destra è già andata a votare, non è questo. Per Renzi? Non è questo. Per Renzi? Noi ma lo hanno dichiarato, guardi che non è un mistero, ci sono persone del centrodestra che hanno detto che andavano a votare per Renzi. Ma c'è questo pericolo? C'è questo pericolo in questi 90.000 di cui parla Renzi? No, non è il problema del pericolo, è la questione della comunità e del fatto che se ci sono delle regole si rispettano, perché lei pensa che Bersani non è bella allargare la platea. L'idea di derogare le regole non avrebbe un vantaggio in termini di partecipazione? Ma non è bella allargare la platea, portare più gente a votare? Il problema, scusi, non, lei insiste nel dire che i 90.000 e 3 milioni che sono andati a votare, quelli vanno a votare, di nuovo. Vogliono che siano rispettate le regole con cui ma non è che gli fanno schifo i 90.000 ai 3 milioni, semplicemente ne entrano altri. Vabbè, comunque. Mi sembra che abbiate un po' la paura blu che possa vincere Renzi, questo. No, guardi, no. La mettiamo su questo piano o no? Se avessimo avuto, come dire, un atteggiamento di paura, se avessimo avuto un atteggiamento di indifferenza o così sciatto nel rispetto delle regole, tutta questa idea delle primarie si sarebbe vanificata, perché noi non stiamo giocando, non è un giocattolo, è una forma di partecipazione democratica, è uno strumento di democrazia, stiamo parlando di chi sarà il Presidente del Consiglio, non stiamo giocando a birilli, quindi le procedure con cui si fa questo e il rispetto cristallino delle procedure mi consente, è la cosa fondamentale. Sì, a me sembra strano che uno che dice però, io non sono stato, non mi è stato possibile andare a votare domenica, non posso andare la domenica successiva, però comunque questa è la mia opinione. Lui lo potrà fare se dimostrerà che non poteva per 20 giorni non ha potuto farlo, che in 20 giorni non ha potuto registrarsi, però ho capito, ma se uno magari si è dimenticato di registrarsi resta escluso anche se vuole partecipare. Capisci che questa non è una scusa, cioè allora uno si è dimenticato, che cosa vuol dire dimenticato? Se uno tiene una cosa non si dimentica, se uno ha avuto un impedimento lo dimostra e lo potrà fare. Le faccio una domanda un po' cattiva, allora lei dopo 7 mandati in Parlamento prenderà un vitalizio molto consistente. Non prendo il vitalizio. Come io no? Vado quando a fine legislatura, caro Cruciani. Ecco, io mi dovrò cercare un lavoro. In perché che senso, scusa? Con la regola, con le innovazioni che noi abbiamo introdotto e di cui sono molto fiera. A 60 anni lo molto prendo. Fiera. Non ci sarà più quella cosa vergognosa per cui uno, a prescindere dall'età, avrebbe avuto un vitalizio, e quindi io lo prendo a 60. A 57 anni mi dovrò cercare un lavoro per 3 anni di famiglia ricca non è mica, e poi dopo avrò il vitalizio. Non il vitalizio, avrò una pensione che corrisponde ai contributi che ho versato. Certo, è vita che si chiama vitalizio, mica è una roba strana. Il lavoro sta Io non sto dicendo che lei sta rapinando lo Stato, ho semplicemente detto lei per 3 anni si dovrà cercare un lavoro e poi da 60 anni prenderà una cosa molto consistente tra 215.000 credo e 220.000. Insomma, lei ha fatto 7 mandati, giustamente, è stata tanti anni in Parlamento. Sì, evidentemente. Ma se vuole facciamo anche l'elenco di tutto il lavoro che ho fatto, no? No, ma per carità, non sto dicendo niente. Secondo lavoro che ho fatto, non conta l'elenco che ho fatto? No, ma come no? Ma no, guardi che chi si è fatto un culo così non conta. Cioè, io vorrei essere chiamato, vorrei che alla fine della mia esperienza poter. Dire essere chiamata in causa sulle cose che ho fatto, lungo elenco di battaglie fatte. Ma si figuri, ma nessuno dice che lei è stata assente in Parlamento, non è certamente tra quelli che non ha fatto la parlamentare nel modo corretto con l'assenteismo. Prende comunque un po' di soldi, non sono troppi questi soldi che prenderà, così, ma come una sensazione. Ma il fatto che non lo so ancora, poi le faccio anche vedere i contributi che ho versato, le faccio vedere i contributi fanno parte delle regole che avete deciso voi, non è che lo dice. Prenderò i soldi corrispondenti ai contributi che ho versato. Che è giusto, secondo lei, o è eccessivo rispetto alle pensioni che prendono gli italiani? Ma è una domanda, uno può rispondere, secondo me è giusto, secondo me non è giusto, secondo me è troppo, bisognerebbe... Ma il fatto che io non so quanto prenderò. Detto 9.000 questo, euro? No, non sono assolutamente 9.000 euro. Secondo me sì. Non sono assolutamente, questi se li sogna. Io me li sogno. Informateli, non esiste una cosa di 9.000 euro. quindi questo io mi devo fare i conteggi perché non l'ho fatto, però sicuramente non sono i 9.000 euro. Tra i 215 e i 220 lordi, mi sembra, mi sembra. Vabbè, ma guardi che non mica, i soldi non sono mica lo sterco del diavolo, cioè è giusto, cioè se uno ha lavorato è giusto. Guardi, quello che so è che sono stata tanti anni in Parlamento, sì, non ho mai visto uno stipendio pieno da parlamentare, perché i soldi dati al partito, con il PC lo versavo metà al partito, con i DS pure, e anche con il PD se non proprio metà. Ha fatto quindi la fame, io no? Intanto dico ai cittadini, sappiate che io, che ho tanti anni che ho fatto il parlamentare, non ho mai preso uno stipendio pieno da parlamentare. Non mi dica che ha fatto la fame, e pure lei. Sono orgogliosa, perché quella parte andava a un partito e serviva a finanziare i circoli, a finanziare l'attività di formazione. Secondo, mi sono pagati i contributi. Terzo, la domanda è questa: la pensione è alta o no? Secondo lei è giusta rispetto a quella degli italiani? Oppure bisognerebbe abolirlo sto vitalizio? Cioè, questa è la domanda. Il vitalizio è la pensione che si basa sui propri contributi. Dopodiché la riforma l'abbiamo, stata una riforma sul contributo, è stata, che è rapportata al metodo contributivo. Va bene, è giusto o no? Sono due cose che sono state fatte, per cui non parlare del vitalizio come una pensione da 9.000 euro che viene data a chiunque. Chiunque, lei ha fatto 26 anni, in Parlamento. Comunque, guardi, quando mi sono fatto i conteggi, mi chiama, le dirò quanto prenderò quando avrò compiuto 60 anni, perché adesso francamente non lo so, so soltanto che per tre anni si deve guadagnare. So soltanto che da aprile mi devo cercare un lavoro. Ma è difficile trovare un lavoro per un deputato? Com'è? Per un ex deputato dopo 26 anni è difficile trovare un lavoro. È così facile, perché io ho una competenza su temi importanti come quelli della sanità, come delle politiche sociali, del lavoro. Sono temi rispetto ai quali, e di questo sono orgogliosa, non molto popolari, rispetto ai quali è difficile, diciamo. È importante, cioè c'è tanto, io troverò tanti luoghi in cui fare del volontariato. Luoghi in cui, come dire, avere una professione con tanto di stipendio non credo di trovarla così facilmente, ma non sono preoccupata, farò molto volontariato. Vabbè, Renzi ha speso tanto per la campagna elettorale, ha avuto questa impressione di una campagna faraonica, dispendiosa, Renzi? Insomma, questa c'è il comitato dei garanti che valuterà questa sortita ultima delle pagine. Insomma, non si sa che costano parecchio, no? Ma quello così, sono costate circa 100.000 euro. Costano parecchio, quindi insomma. Però io non dico nulla, perché ci sarà un comitato dei garanti che valuterà. Famoso comitato dei garanti. Ma è di sinistra o no? Quanto è di sinistra, Renzi? La democrazia si basa per carità. Non capisce le dinamiche. Si sveglia al mattino e dice: sai che ti dico, mi piace questo. Quindi il comitato dei garanti è una cosa seria. Io delego, mi fido. Figuriamoci. Renzi non si fida perché dice che sono tutti dei Bersani. Comunque lasciamo perdere. Intanto non è così, perché dice anche Renzi, i rappresentanti non credo che abbia messo dei rappresentanti poco svegli. Quindi e se poi invece quanto è di sinistra secondo lei? Poco, pochissimo Renzi. Quanto è? Una percentuale? Poco. Renzi appartiene, ha idee diverse dalle mie. Ma quanto è di sinistra? Pochissimo. Non lo so. Non è proprio di sinistra, si lascia andare. Non vorrei fargli un torto, zero, pochissimo di sinistra. Quando dice che vuole investire molto sugli asili nido, che parlo di piena e buona occupazione femminile, quello sì. C'è delle cose che mi trovo molto in sintonia. Sto parlando di una persona che fa parte della mia comunità. Ma questo lo dicono pure quelli di destra. Io non dico noi e loro, io dico Renzi come parte della mia comunità. Bene, grazie, buona serata. Grazie. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. E che affonda il becco su di me. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray. Siamo qui 20:16 800 24 00 24. Claudio da Milano, buonasera. Buonasera. Vada. Finalmente sono riuscito a mettermi in contatto. Allora, nulla, chiamavo per il caso Sallustri. Scusi. No, ma non c'è bisogno di scusarsi. Piccolo Ruccio, ma il contenuto è chiaro. Nulla, la mia, allora, premetto che non sono del PDL neanche della sinistra, forse a sinistra trovo persone un pochettino più per bene, quindi mi sento più da quella parte che dalla parte del PDL. Però dico che secondo me se il signor Sallusti era giornalista di questo giornale che non era Berlusconi non avrebbe subito questo accanimento da parte della magistratura. Ah, anche secondo me. Ecco, questo è quanto. Poi un'ultima nota che volevo dire era su Monti, se mi permette. Io sono un imprenditore di Milano, c'è un'azienda con 16 dipendenti e un cantiere paralizzato perché la banca non mi ha più finanziato. Monti ha fatto tante cose positive, nonostante mi ha apprezzato a livello fiscale, mi fa spendere più quattrini, io lo riconosco una persona valida e forse il primo vero governo sano che abbiamo dal dopoguerra. Dico solo che dovrebbe un attimino più lavorare per i dipendenti, cercare per le imprese, scusa, e cercare di sbloccare l'accesso al credito, perché sennò veramente va bene. Grazie. È troppo pronto. Grazie. Giovanni, provincia di Cosenza, buonasera. Giovanni? Non c'è. Daniele da Firenze. Mi ha scritto Favia un messaggio. Che ti ha scritto? Mi ha scritto, ma questo Cruciani proprio veramente non ci arriva. Ha ragione. A che cosa non ci arriva? No, leggi il messaggio tutto, leggi il messaggio. Aspetta, perché sono sul cellulare. Se vuoi, sì. Se aspetti un secondo, tu intanto parli Daniele con quello e tiro fuori il messaggio. Daniele, aspetta un attimo. Daniele da Firenze. Buonasera, sono Daniele, ho 31 anni e sì. Ho i conati di vomito. Mi presento come se fossi l'alcolisti anonimo. Sì. Ho i conati di vomito a sentire De Gregorio. Sì. Che fa i torti a Berlusconi e quindi passa all'Italia dei Valori perché voleva fare il dispettuccio. Sono conati di vomito a sentire Lilia Turco che a 57 anni non sa neanche quando prende di pensione, però sa che non prende 9.000 euro. E quindi dico soltanto che se ne andassero tutti a cagare e forza Grillo dittatore. Tutto qua. Ecco. Daniele, scusi un attimo, però abbia pazienza. La sciocchezza delle 20:17, sciocchezza, poverino, l'ubriachezza molesta. Ascoltate, non si mette in macchina. Sciocchezza dalla mattina alla sera, la posso dire una anch'io. Non vogliamo il dittatore. Quelli che ascoltati da queste persone tutti no, ma non si metta alla guida, non si metta alla guida in quello stato. Però di sembra che stiano andando ad arrestare Sallusti adesso. Sembra che stiano andando ad arrestare Sallusti adesso. Chiamiamolo immediatamente, facciamo l'arresto di Sallusti in diretta alla Radio 24. Scusa, chiamiamolo al cellulare. Da quello che un altro che dice lei? Un altro martire. Che vuol dire? Un altro Marco Sallusti sta facendo questa sceneggiata perché ora si vuole far arrestare soltanto per far parlare di sé, sa benissimo che non ci andrà in galera. Ma come no? Quanto ci volete scommettere che fra 20 minuti questa notizia sarà fatta, che il signor Sallusti non sarà andato in galera? Quanto ci vuole scommettere, Cristiano? Allora, il problema è molto semplice, è molto semplice la questione, caro Giovanni, o come diavolo si chiama lei, Daniele da Firenze. La questione è molto semplice, se uno ha una condanna a 14 mesi e decide di violare gli arresti domiciliari, come ha detto di voler violare, non ci sono altre soluzioni, tant'è che oggi Sallusti ha detto che Bruti Liberati, il procuratore capo di Milano, gli avrebbe detto per interposta persona adesso non scherziamo più, questo ha detto Sallusti. Dunque in realtà insomma, non è proprio così, lei non ci crede che va in galera, vedremo, adesso proviamo a chiamarlo perché mi dicono che stanno andando a prenderlo. Ho ricevuto un messaggino. Mi dica. Secondo lei il signor Sallusti ha violato gli arresti domiciliari perché vuol Ma far se ancora non c'è ma quello è un altro ma quello è un altro discorso, un'altra valutazione che si può fare per far parlare di sé. Sicuramente ha insistito per andare in carcere. Ha insistito in quest'ultimo frangente per andare in carcere. Ma perché? Si possono dare varie interpretazioni. Secondo alcuni per una battaglia. Una persona intelligente, lei se la sarà posta anche lei. Secondo alcuni per una battaglia di principio, secondo altri per suscitare clamore intorno a se stesso e al giornale, per orgoglio, per vanità. Ma secondo me per un misto di tutte le cose, per dare una lezione ai magistrati, per convinzioni proprie personali, insomma, per tante cose, non lo so, ma non sono mica dentro la testa di Sallusti, cioè, abbia pazienza. Ma sì, me lo sono posto, perché questa insistenza, perché non pagare il giudice, perché non seguire i consigli di Feltri, perché non accettare i servizi sociali e adesso i domiciliari. Certo che mi sono posto il problema, certo c'è un'insistenza per arrivare a una conclusione drammatica della vicenda, su questo non c'è dubbio, sull'insistenza di Sallusti di arrivare a una soluzione drammatica, e poi uno può fare tutte le illazioni che vuole. ho recuperato il messaggio di Favia. Sì, qual è il messaggio di Favia? Daniele, un attimo. Il sì. messaggio esatto di esatto. Favia è sì. ma Cruciani proprio non ce la fa. Tre puntini. Sì. Ho capito, ma però il signor Favia invece di rifiutare non ce la fa a capire. Sì, però il signor Favia invece di mandarti messaggini, ma cosa che per carità, ma no, ma va benissimo, ognuno può pensarla come vuole. Invece non di mandarti, ce la fa, che non ci arriva. Sì, ma invece di mandarti serve, ma... invece di mandarti messaggini per dirti Cruciani non ce la fa e non ci arriva. Ma chiamiamolo. Ma no, ma potrebbe no, ma non vuole venire. Cioè adesso lo chiamerò io un giorno e gli dico: guarda, io non ho nulla contro di te. Chiamiamolo adesso in diretta, voglio... non è che risponde. Ma no, ma non... chiamalo, prova a chiamarlo nell'intervallo e vediamo se risponde. Ti dirà: no, non voglio venire qua su giù, eccetera. Perché poi in realtà rompe, ma non del tutto con Grillo. Per cui. Cioè rompe, ma in realtà non rompe troppo con Grillo. Lui sta facendo una... Ma sì, ma va benissimo, ma ce la spiegasse, ci dicesse cosa pensa sul serio, non facesse tic e toc e tic e tac e ti manda i messaggini. Io la penso in maniera diversa da te. Venisse a confrontarsi uno dei prossimi giorni, da lunedì in poi e via. Intanto fammi nell'intervallo, fammi il numero di Porro, di Sallusti, oppure facciamo il numero di Sallusti al volo, che dici? Non lo so. Sì, subito. Massimo da Bologna. No, vabbè, ma abbiamo avuto ieri, quando è stato? L'altro ieri. Buongiorno. Ma dove va? Beh, però ci raccontasse in diretta. Ma che ci racconta in diretta? Non è che sta al nostro servizio che ci racconta in diretta l'arresto. No, è il nostro, al servizio dell'informazione. Noi siamo per fare, noi in questo caso siamo servizio pubblico in questo caso. Ma quale servizio? Ma sarai tu servizio pubblico in quel caso? Siamo servizio pubblico. Massimo da Bologna. Stiamo raccontando l'arresto. Va bene. Massimo. Vada. Buonasera. Senza Cruciani è molto difficile capire qualcosa sulla faccenda delle regole. Le volevo ricordare una cosa. Io sono di Bolognese, sono un lettore di sinistra che ha fatto domenica un'ora di fila e un'altra ora di fila la settimana prima per registrarsi. Sì. Lei 20 giorni fa si è scagliato contro la consigliera comunale della mia città del Movimento 5 Stelle, la Federica Salsi. Scagliato, adesso non esageriamo. Avrò criticato come è legittimo fare, ma... su un punto particolare, quello delle regole del Movimento 5 Stelle. Sì. Certo. Dicendo che chi non rispetta, chi conosce le regole e non le rispetta, è giusto che vada fuori. No, ma io non ho detto questo. Io ho detto, lei ha detto esattamente questo. Ma non ho detto... Lei è diventato un fenomeno da baracconi. Può essere. Contro la sinistra, è arrivato a un punto la tale sinistra. Che è bisogno di Renzi, ma si rende conto di come messo. No, ma stia calmo, signor, come no, si chiama? Io sono calmissimo. Caro Massimo, io ho detto una cosa, ho detto una cosa molto... La polemica sulle regole, io sono... Ma non è le regole, ma lì no... rispetto delle regole. Lì non c'era un problema di interpretazione delle regole, lì no. C'era un problema molto chiaro, cioè dire Grillo dice non andate nei talk show, non si parla con i talk show, lo decido io. Le regole per le elezioni erano delle primarie, sono molto chiare, erano chiarissime a tutti. Non mi pare che l'ha sentito Berlinguer il 25 da cani e porci per vincere. Ma quella è un altro paio. Ma quella è una sua valutazione e politica voi, che non è... come altri suoi colleghi. Vabbè. Avete bisogno per scagliarvi per il vostro anticomunismo da operetta. Vabbè. Di cavalcare questa faccenda qua, siete veramente la canna del gas. Va bene, grazie Massimo. Leonardo da Padova, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Quanto mi fai arrabbiare, Cruciani? Mi piace un sacco perché mi fai pensare. Tiri fuori il trash che c'è della gente, incredibile. Grazie. La cosa terribile. Ascolta, io volevo, non so, una stupidata, dirgli a questa signora lo turco, se non sbaglio. Turco. Io faccio il camionista, prendo solo 20.000 euro all'anno, 25.000 euro all'anno. Mi dispiace se dovrò andare a lavorare 3 anni prima della pensione. Che saranno? 6, 7, 8 mila euro al mese che prenderà? Più o meno, non so. Dopo sì, a 60 anni sì. A 60 anni dovrà smettere. Ho capito, a 57. Lei dice che ha versato i contributi. No, io penso, sì, va bene, Dio, per carità, avrà fatto qualcosa. Ma possiamo fare una sospensione popolare, un qualcosa per darle qualche soldo a questa signora, perché non ha preso mai un soldo, uno stipendio pieno, ha detto. Questo è terribile, è un lavoratore, non ha preso Ha detto che non ha mai preso uno stipendio pieno da deputato perché la metà lo dava al partito. Ah, quanto saranno? 10.000 euro? 7-8.000 euro? Adesso, voglio dire, dava la metà dello stipendio da deputato al partito, prima al Partito Comunista e poi successivamente ai DS, eccetera, eccetera. Dunque non ha mai preso uno stipendio pieno da deputato, ha versato i contributi e dunque adesso ha diritto alla pensione. alla pensione, sì, che prenderà tra 3 anni, e dunque per 3 anni è senza stipendio, dice lei. Sì, no, no, vabbè, per quello dico, mi sembra terribile, poi se mi sembra che sia povera, ha fatto un lavoro... Le ha fatto questa impressione, di una che piangeva miseria, questa è l'impressione, sì, che ha avuto? Sì, veramente mi ha fatto pena, perché ho detto, va, mettiamo qualche soldo insieme tra noi e li diamo questi anni che deve lavorare, poveraccia. I prossimi 3, ha anche detto che non è facile trovare lavoro, comunque non penso che sia... Non ha avuto l'impressione che si piangesse addosso, comunque... Mi è sembrata che, non so, che era terribile darle la metà dello stipendio... Metà dello stipendio di quanto? 20.000 euro al mese? Ma sì, no, ho capito, ma no, un po' meno da deputato. Ma vabbè, cioè, io ho degli amici che tengono la famiglia con 1.500, 2.000. Ho capito, ma non è che tutti guadagnano 2.000. Lo stesso nell'Italia e nel mondo, eh? Cioè, ci sono differenze. No, mi sta benissimo, solo che mi sembra, a dire il vero, troppo. Per la situazione, per l'insieme delle cose. Anche secondo me è troppo, è stato troppo miseria. Fino adesso, però non piangeva miseria, devo non dire la verità. Non piangeva miseria. Beh, se mi è sembrato, ho capito male. Via. No, no, ho però capito. Voglio dire, il fatto che lei abbia capito. No, ma ho capito, Leonardo, ho capito, grazie. Nicola da Pescara, Nicola da Pescara, buonasera. Buonasera a te, scusami, sono il fiatone, ma sono a passeggio con il cane, ho spento la radio da poco. Vada, volevo dirti una cosa al volo, ti l'ho detto, perdonami, tanto è simpatico. Volevo dirti una cosa riguardo la Turco. Sì. Lei hai fatto una domanda, no? Molto semplice, hai detto, ma voi avete probabilmente paura. Ma si evince da tutti gli atteggiamenti di questi signori del PD che c'è una paura fottuta, si cagano addosso che Renzi possa vincere. Con queste regole patetiche, ma diteglielo in faccia, fate ridere veramente i polli. Io non ho votato alla prima, non posso votare alla seconda, ma di che stiamo parlando? Sono patetici, chiusa la parentesi. Volevo dirti una cosa riguardo il programma di ieri, non sono riuscito ad intervenire, ma hai provato a chiamare Baime al telefono? Cioè, ha fatto una dichiarazione allucinante. Sì, quella su Sallusti e la rieducazione, sì. Stampo, una cosa agghiacciante, ma è da mandare nel detto. Paese, insultatelo, chiamatelo ed insultatelo, avesse il coraggio di ripetere quello che ha detto, è una cosa ma che lo abbiamo detto. Ma cosa l'abbiamo detto? Vabbè, lei vuole che noi lo chiamiamo e lo insultiamo. Noi adesso, lo abbiamo detto, no, insultiatolo in senso buono, no? Gli insulti, no, ma ho capito. È una cosa allucinante, da un giornalista, detto da un giornalista. Cioè, è una cosa gravita, provalo a chiamare, fammi questa giornata domani sera. Noi dico, domani è sabato, per fortuna. Ma dai, domani, lunedì, su, un modo di dire. Sì, no, è incredibile, mi si è accapponata la pelle. Un saluto anche a Parenzo. Ciao. Una cosa al volo, te la posso dire? Dimmi. Un consiglio, mettimi ogni tanto la canzoncina di Scilipoti, è una meraviglia, è una cosa meravigliosa. Mettila come sigla. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aia nel letto che mi graffia tutto. Siamo qui, la zanzara. Mi fate risentire di nuovo il mitico Isidori. Vi prego, Isidori sul carcere. Il carcere è un penitenziario, non è un villaggio di vacanza. Si deve scontare la sua pena per scritta, che gli aspetta. Lo sapeva prima fare il reato. Io ritengo come Lega di non uscire prima della sua pena irrogata. Grazie. Ti sei informato, Parenzo? Dunque, ho parlato poco fa, vedete che sto chiudendo una transazione finanziaria. Sì. Ho fatto una spesettina. No, ho parlato con il signor Porro, ho chiamato il signor Porro, sì, vice direttore del giornale, nonché conduttore della trasmissione in onda. Vabbè, lo sappiamo, non ci rompere i coglioni, dai. Allora, la notizia è che squilla ma non risponde. Cioè, la notizia che possiamo dare alle agenzie ora, sì, è che Porro squilla ma non risponde. Questo possiamo, te lo do, questo non è importante, richiamalo. No, te lo do come notizia proprio freschissima, appena trovata, diciamo. Ho capito, ma non ci facciamo nulla con questa roba. Parenzo, 2 punti. Porro squilla ma non risponde. Possiamo fare anche un lancio. Va con bene. Tre croci, Fausto, ma... da Brescia, buonasera. Però, Fausto, se tu mi molli un attimo, io lo chiamo di nuovo. No, Fausto da Brescia, tu sei come al solito in giro come il venerdì sera a fare le compere. Ormai sei diventato una sorta di fantasma. Le compere di Natale, le compere per la cena del venerdì sera. Ormai sei diventato. Ma perché non? Mi puoi passare un attimo? Fausto da Brescia, adesso ti faccio cambiare vita. Io ti faccio cambiare. Fausto da Brescia, buonasera. Ciao, ciao. ti dica. Posso contribuire solo una cosa in questa tua trasmissione. Tu prima di tutto sei un disgraziato. Che senso? Perché non si può, ogni volta che intervisti un parlamentare, questi signori qua tirano fuori il meglio di loro. Io ti parlo come un cittadino, un semplice operaio. Ti faccio due esempi. Tu adesso hai parlato con la Livia Turco. È una vergogna. Io, se andavo in pensione alcuni anni fa, avrei preso l'80% della mia pensione, i contributi che io ho versato. Questi signori hanno trasformato il tutto. Quando andrò in pensione io prenderò forse il 60%, sempre dei contributi che io ho versato. La Livia Turco non è vero che non prenderà il vitalizio, ma lo prenderà... No, lo prende a 60 anni, certo. Perfetto. Mica ha detto che non lo prende. Ma cosa queste persone dire esattamente le cose come stanno? Ci girano attorno e mai una volta, mai ho sentito un parlamentare... No, ha detto che non lo sa, ha detto che non sa quanto prenderà. Sì, però, però quando tu hai parlato del suo vitalizio ci ha girato intorno. Ma è mai possibile che sia una cosa così vergognosa prendere il vitalizio? Se i contributi li hanno versati li prendono e va bene. Però mai è mai possibile che loro non si rendano conto che gli operai in questo momento non sanno neanche quello che andranno a prendere in pensione, perché non c'è la possibilità di fare un conteggio neanche a lunga durata. Sì, è vero Fausto, infatti ho chiesto quanto prenderà e lei ha detto non lo so, comunque lo prendo tra 3 anni. Io ti dico... È io tanto ti dico, o è poco? Vaga. Però io ti faccio questa domanda molto semplice. Sì. Io l'anno scorso, facendo due conti, avrei dovuto prendere più o meno l'80% di quello che è il mio stipendio. Sì. Chiaro? Ha fatto la riforma, questo governo tecnico, illegittima, perché un governo tecnico non doveva fare un ragionamento politico, avrebbe prima dovuto fare tutto un ragionamento tecnico. Vabbè, ho capito, lei prenderà meno poi alla fine. Come? Prenderà meno. Prenderà meno. Scusa, scusi un attimo, Parenzo, che stai facendo, scusa? Eh? Che stai facendo? Che sento del rumore. Sto pagando. Sono alla cassa, sto pagando una cosa. Stai pagando, ma stai sentendo quello che succede o no? Oppure stai facendo gli affari tuoi? Sto sentendo tutto. Andrea dalla provincia di Torino. Ho un messaggio sotto, non vorrei fosse di Porro, ma non posso leggerlo perché sono al telefono con te. Sì, prendi sto messaggio, tanto è inutile che stai al telefono. Andrea dalla provincia di Torino. Pronto? Dica. Buonasera, saluto tutti. Una cosa, mi è dispiaciuto che la signora Turco sia andata via. Io domenica per la prima volta mi sono avvicinato, diciamo, alla politica attiva, ero in un seggio per le primarie del PD. Vorrei pregare la signora Turco, invece di appellarsi a regolamenti e commi e sottocommi, di tenere presente che, per la mia esperienza, l'80%... Non si sente niente, Andrea, si sente disturbato, o prova a parlare meglio. Pronto? Pronto? No, sì. No. Allora? Ecco, l'80% delle persone che sono venute a votare non si erano registrate prima, si sono registrate sul posto. Questo perché ad Ivrea era necessario andare alla sede del PD per registrarsi prima, in centro, zona pedonale, oppure via internet. Quindi vuol dire che una persona che abita in periferia e non ha l'accesso a internet è venuta direttamente a votare. Ora, le faccio l'esempio pratico. Una persona che domenica potesse avere un qualunque problema, uno, nessuno che lo portasse, due, un problema di salute, questa domenica non potrà recarsi a votare. Ora, se questa è democrazia, ma secondo me dovrebbero cambiare il nome di questo partito. Perché cioè, poi, lei sta dicendo che ci sono persone che non si sono potute registrare e si potevano registrare solo recandosi in alcuni posti. Degli elettori alle primarie. Io ero al seggio e le dico che quelli che sono arrivati già registrati erano una minoranza. Ho capito, ma uno può registrarsi. Lei dice sostanzialmente che c'è un sacco di gente che non si è potuta registrare. Perché non si è potuta registrare? No, ha deciso di venire al seggio. Ho capito, ma uno si poteva registrare anche prima. Esatto, ma se non aveva l'accesso internet o nel caso di Ivrea non aveva la possibilità di andare in centro in zona pedonale, ha deciso, come sta previsto, di registrarsi sul posto. Se quel giorno era malato, domenica prossima non potrà fare la stessa cosa, che mi sembra un esempio. No, ma io sono d'accordo con lei, è ridicolo. Bisognava aprire il secondo turno anche per quelli che non erano registrati. Hanno avuto paura di farlo. Mi è dispiaciuto l'imbarazzo della signora Turco quando lei gli ha detto avete una paura blu di perdere, perché questa è la vera ragione. Allora, bene, grazie. Alessandro da Milano. Ma come si fa a non capire che le cose si decidono prima, non dopo? Tu sei fuori dal mondo, perché tu pensi alle regole come qualcosa di scolpito nella pietra. In realtà non è così. Non è così. Alessandro da Milano. È come se in un'elezione normale per le politiche, sì, diciamo, sì, si decidesse improvvisamente al secondo turno, al ballottaggio, sì, come avviene magari per i sindaci, sì, di cambiare il corpo elettorale. No, sei un cretino, non è così, perché il corpo non è vero, perché se io non sono andato al primo turno, posso andare al secondo alle politiche, a eleggere il sindaco, hai capito o non hai capito? Lo facevo come paradosso, perché non è un paradosso, hai detto una stronzata, dai su. No. Un corpo elettorale definito. Fatemi un numero qualsiasi. Chi dobbiamo chiamare? Fatemi un numero qualsiasi. A votare. Quello che tu non senti, hai capito, il problema fondamentale è un altro. Quello che tu non hai capito è che qui potevano andare a votare. Avevano 20 giorni di tempo, sì, per iscriversi e per farlo. Se non lo hanno fatto, figlio mio, è come iscriversi alle liste elettorali, no? Figlio mio, non l'hanno fatto. Come quelli che non ritirano il certificato elettorale prima delle competizioni normali, no? Uno non ritira il certificato elettorale, non è che arriva la domenica. Ma era prevista la possibilità di agire anche al secondo turno, era prevista senza particolari giustificazioni. Invece le particolari giustificazioni, i poli fratturati, i certificati medici, la giustificazione scritta, no, e controfirmata, se la sono inventata dopo. Paolo da Torino. Crociani. Dica. Ah, buonasera, sto dato qui in linea, non capivo più una mazza. No, niente, ho sentito prima due parole su questo nervosismo che le incuote questi personaggi dissidenti grillini. Ma che l'hanno fatto? Non ho capito, scusi. Le ho detto, ma l'ho sentita prima, che la fanno tremendamente arrabbiare sti grillini dissidenti, no? Ma non è che mi fanno arrabbiare, che secondo me utilizzano degli argomenti che potevano tranquillamente utilizzare un anno fa, due anni fa. Vabbè, cioè, ma stata di non c'è differenza. Registrazioni, PD, non PD, è la stessa cosa, ci avranno dei loro problemi, sì, e allora? Le buonanotte, no? Cioè, allora? No, niente, allora niente, voglio dire, c'è tutta una serie di argomenti da trattare e stiamo dietro a delle situazioni da talk show, chiamiamole così. Ma non ho capito niente, scusi Paolo, non ho capito nulla, di che sta parlando? Tutta una serie di problematiche, no? Stiamo dietro a quattro persone che poi chi sono? La Salsi, Piemonte, Favia, vabbè, amen. E avranno fatto le loro scelte, chi se ne frega, voglio dire, bisogna stare a fare, cioè forse è l'unico argomento che avete da parlare del Movimento 5 Stelle, immagino, no? E che ne so, mi viene in mente questo, no? Perché le uniche notizie che puoi sentire sono queste, poi della situazione in generale, ma anche di un movimento che di fatto non ne parla nessuno, sembrerebbe, poi io non lo so, la secondo partito del paese, boh, sembra che non esistano solo quei due lì che adesso addirittura occupano spazio nella televisione pubblica per farsi pubblicità a vicenda. Ma se nella televisione Grillo non ci vuole andare? Ma che c'entra la televisione? Non esiste mica la sola televisione come mezzo di informazione, no? Immagino. Appunto, allora perché lei protesta perché quei due stanno sempre in televisione? No, io non è che facciano quello che gli pare, vadano anche 24 ore su 24 a farsi vedere in televisione. Sto dicendo che, voglio dire, e stiamo parlando di che cosa? Del nulla, stiamo parlando appunto di spettegulese, voglio dire. No? Vabbè, Umberto dai, della provincia di Bergamo, su. Ciao, grazie, Umberto. Spettegulese. Signore Cruciani, io se volevo parlare di, appunto, di Renzi, io e la moglie domenica siamo andati a votare e abbiamo votato Renzi, solo che adesso andremo domenica e voteremo Bersani, e le spiego anche perché. Perché sì, le famose regole, se ci sono, sto cazzo di parola in Italia avrà un valore, le regole servono per dare una regola appunto a tutti, sì, le rispetti, le voti, e le non sono buone, le cambi, ma nel momento che le fai le tieni, tanto è vero che avete intervistato Alfano che ha detto che se vogliono fare appunto le primarie, ma vogliono sentire i loro elettori, non ha detto vogliono sentire gli italiani. Quelli di sinistra sono così coglioni che cani e porci possono votare al loro partito. Io ho due amici, tutti e due della Lega, perché siamo in provincia di Bergamo, hanno votato tutti e due con me per Renzi. Uno ha detto se vince Renzi voto Renzi. E l'altro ha detto così, anche se vince Renzi io voto Lega. Allora, sono loro che decidono il nostro candidato. Ma no, ma quelle sono come dire, minoranze che ci saranno sempre, di disturbo, certo, chiamiamolo così, oppure di persone che prima votavano Lega e adesso vogliono votare Renzi al Partito Democratico. Non vedo cosa ci sia di male. Benissimo, ci hanno avuto il tempo, non il tempo. Per registrarsi, diceva. Lei ha ragione su questo, però sulla questione della... Io non sto dicendo che è sbagliato mettere un limite alla partecipazione al secondo turno, io non sto dicendo questo, io sto dicendo che la questione della giustificazione così come dire, precisa da dare con tanto di documenti, è una cosa che è stata decisa successivamente. Allora, se uno in realtà voleva partecipare semplicemente dicendo o scrivendo, che già è un impegno, dunque sicuramente non ci sarebbe stato un afflusso record, o comunque non ci sarebbero stati 400.000 lettori in più, se uno voleva registrarsi in due giorni, giovedì e venerdì, senza essersi registrato prima, dicendo sono stato impossibilitato a votare, a registrarmi prima, secondo me non cambiava nulla e le polemiche sarebbero morte. Invece, chi ha paura che magari 200.000, 300.000 elettori nuovi, tutti quanti renziani, potevano cambiare le carte in tavola o potevano cambiare un risultato già scritto, ha detto no, non basta questo fax, non basta questa dichiarazione, ci vuole anche il certificato allegato e poi bisogna aspettare la risposta dell'ufficio provinciale, eccetera, eccetera. Tutto questo oggettivamente è sembrato un impedimento a far entrare persone che non erano presenti al primo turno, che potevano votare al secondo quanto è previsto dalle regole approvate, ma senza una giustificazione scritta che a me, francamente, sembra ridicola. Traffico. Stanno sbagliando forse. La zanzara. Luciana da Padova, buonasera Luciana. Sono qui. Dica. Allora, io avrei tante cose da dire, no? Sulla dica Pensi, una, ne dica sono una. D'accordo. Sulla Pensi sono d'accordo sulla, con lei. Sulla? Ma lei è all'auricolare? No. È al telefono normale, senza auricolari, senza ammenicoli vari? Senza auricolare, senza nulla. La sento malissimo, Luciana. Adesso come mi sente? Mi sono allontanata. Così, così. Comunque, allora, chi è che non sopporta? Sulla Sensi. La Salsi, Salsi si chiama. Salsi. Scusa, non Sensi, Salsi. Direi che il suo modo di esprimersi, il suo modo di comportarsi è molto più violento di quello di Grillo. Premetto che io Grillo non lo voto, però Grillo interpreta in maniera colorata tutto quello che pensano gli italiani. Seconda cosa, volevo parlare di Renzi perché ieri sera avevo chiamato per quello. Allora Renzi, io se fossi Renzi farei così: domenica non mi presenterei al ballottaggio. Perché questo è l'unico modo di darla sui denti a chi ha cercato di mettere, perché io conosco un sacco di gente un attimo solo. A votare e non può farlo. Sì, buonasera. Salve, volevo avere un'informazione per il PD di Napoli? Così sembra. È il comitato provinciale? Sì, dimmi. No, che ne so, magari mi sbaglio. No, assolutamente no. È il comitato provinciale, cioè per chiedere delle informazioni per domenica. Devo sì, chiedere. Lei è? Mi chiamo Giovanni. Giovanni? Giovanni di Capua. Sì, mi dica. Scusi un attimo, volevo capire una cosa. Domenica io però non ho potuto registrarmi nei 20 giorni precedenti. Che devo fare per votare domenica? Ma è sicuro che lei non è un giornalista? Una voce un po' strana. No, che giornalista? Perché devo fare giornalista? Faccio l'elettore. Ah, ok, perfetto. Allora, lei doveva fare entro le 20 richiesta. Sì. I termini sono scaduti, sono le 21. Ah, è scaduto? Sì, era alle 21 il termine, era alle 20 il termine per fare richiesta di iscriversi. Ma io ho mandato qualcosa, cioè ho mandato un'iscrizione. Allora, se mi ha mandato un'email, sì. Le email verranno valutate tutte domani mattina, abbiamo appena finito di stampare. Però io non ho legato un certificato medico, nulla. Non ho allegato niente, che succede? Pronto? Io non ho allegato niente. Sento male, pronto? Non ho allegato niente. Vabbè, verrà valutata la richiesta, adesso non glielo so dire. Non l'ho letta, le abbiamo stampate soltanto per il momento. Cioè, ho detto semplicemente che devo assistere una persona. Non lo so, c'è una commissione che valuterà tutto domani mattina. Per il momento le abbiamo stampate, erano 1500 email, non le abbiamo lette tutte. 1500? Domani mattina, sì. Anche ci sarà una commissione. Ma secondo lei c'è speranza? Secondo lei? Dipende, io non lo so, non l'ho letta. Però lei la sta mi sta mentendo in questo momento. Però va bene lo stesso, diciamo. In che senso le sto mentendo? Che ha una voce conosciuta. Ah, Cruciani, sei troppo bello. Ma come sono parecchio. Come stai? Chi sei? Parenzo, tu, hai una voce? Guarda, io ti sento tutte le sere, non me ne reso conto. Lo so. Diretto su Radio 24? Sì, su Radio 24. Salutami tutti, allora. Senti una cosa, ma... Dimmi, dai. Quante ne sono arrivate? 1.500. A Napoli, oltre 1.500. A Napoli oltre 1.500. Molte provenienti dal sito io voto bla bla bla, quello che hanno fatto. Ah, eccoci. Molti hanno cercato di mandarle in massa, no? Di mandarle in massa da lì. Ma sono, hanno mandato allegate oppure no? Con qualcosa di allegato, c'è cioè qualcosa di serio? Sì. Ci stanno certificati medici, biglietti aerei. Tutti finti. Addirittura un allegato certificato di morte di un parente, vabbè. Tutti finti secondo te? No, secondo me no. No, però questi qua che i mail bombing sì. Sì, l'ultima che è arrivata dice il sito di domenicavoto.it è chiuso, fatemi votare comunque. Vabbè, ma tu sei bersaniano? O non te ne frega niente. No, io voto. Voti tipicamente bersaniano convinto. Dai, convinto. Ma questa cosa che non possono votare quelli che non danno la giustificazione, ti piace? Sì e no. Vabbè, sbilancia, di tanto non abbiamo fatto nome, cognome, niente. No. Guarda, il problema è un altro, è che se tu fai un regolamento, diciamo... Ma era vago però sulla questione delle pezze d'appoggio per il secondo turno, No, non era vago. Cioè casi eccezionali, dici tu. Casi eccezionali, sì, è normale. Se uno mi dice, sono stato 20 giorni qua, oppure quel giorno volevo votare, ero in aereo, io ho stampato io stesso i biglietti d'aereo. Però voglio dire, tu dici, uno in 20 giorni poteva avere il tempo di mandare una mail. Volendo, sì. Diciamo. Bastava quello. Andare sul sito e scrivi www.italianaprimaria.italianabenecomune.it. Voglio votare. Chi ha fatto quella roba e non ha votato al primo turno potrebbe votare, secondo me. Sì, però non è nemmeno sicuro questo. No, io non lo so, io non sono nella commissione, diciamo, io ho stampato, allora dico una cosa, ho stampato 3 risme di foglie. Tre risme di foglie, cioè queste 1500? Anche un po' di più, a un certo punto è finita la carta, abbiamo messo la carta riciclata. Quante ne sono arrivate allora infine? Più o meno. Ma secondo me oltre 1500. Oltre 1500? Sì. Quante ne verranno accolte più o meno a occhio? Ah, non lo so. Io ho stampato e portavo però di là. Però 1500 a Napoli è tanto, solamente a Napoli. Provincia di Napoli, sì, sono tantissimo. Abbastanza, secondo me, sì. Va bene, grazie. Nell'altra provincia com'è la situazione? Aspetta, Cruciani, dove che vai? Che c'è? Dimmi, che c'è? Dove devo finire la missione? Avete chiamato altre province per sapere com'è la situazione? No, ho chiamato Torino, ma non rispondeva nessuno. Stranamente, a Torino hanno già chiuso, a Napoli invece no. Vedi pregiudizi. Senti, allora, ma ti dico una cosa. Diciamo, sono i volontari gratuiti, ragazzi qua anche dei giovani democratici che stanno lavorando da una settimana. Oh, meno male, giusto. Soldo, certo, H24, certo. Diciamo. No, ma certo. Uno chiama Torino e non risponde nessuno al comitato provinciale. Chiama Napoli. Napoli ancora, la federazione è piena di gente che lavora. Hai capito? Tutti bersaniani là, sprobattuto. Diciamo misti, anche sono le ragazze di Renzi. Sì. Più carine? No, non so se sono più carine, però sono simpatiche. Ciao, grazie. Ciao. Ci sentiamo lunedì 18:30 alla Zanzara. Vive e lotta insieme a voi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. La Zanzara.